Mi Gege Telesforo, questo è sempre il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, puntata numero 110, e con la puntata di oggi vogliamo continuare a raccontarvi del meraviglioso rapporto che esiste fra la musica e il nostro benessere. Ieri abbiamo letto alcuni passi tratti da questo libro intitolato La cura della salute, scritto dalla psicologa italiana Rossella Semplici, che ci racconta quanto sia importante il rapporto fra la musica e il nostro benessere. Lo abbiamo detto, la musica può accelerare o rallentare il metabolismo, la frequenza respiratoria, abbassare la pressione sanguigna, ridurre o ritardare la fatica e lo stress, abbassare addirittura la soglia degli stimoli sensoriali e quindi ridurre il dolore, ridurre o incrementare l'immaginazione. Comunque l'utilizzo della musica come terapia è documentato fin dall'antichità e in tutte le civiltà. È da una concezione arcaica proprio dell'efficacia terapeutica di tipo magico, di tipo sciamanico, fondata sulla convinzione che la musica potesse influire sulle malattie e sulla guarigione, si arriva in tempi moderni, in tempi piuttosto recenti, alla definizione di musicoterapia. Che cos'è la musicoterapia? La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non verbale per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. La World Federation of Music Therapy, la Federazione Mondiale di Musicoterapia, ha dato nel 1996 la seguente definizione: la musicoterapia è l'uso della musica e o degli elementi musicali come il suono, ritmo, melodia e armonia da parte di un musicoterapeuta qualificato con un utente o un gruppo in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La musicoterapia mira così a sviluppare le funzioni potenziali e o residue dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e conseguenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico. E ieri abbiamo anche letto del professor Levitin, che è riuscito a dimostrare che suonare e ascoltare musica ha evidenti e significativi benefici per la salute mentale e fisica e promuove addirittura la produzione dell'ormone ossitocina, l'ormone dell'amore, della felicità e dell'appagamento. Appagamento che arriva quando si ascolta la bella voce di questa ragazza che arriva dalla bellissima isola di Capo Verde, si chiama Sara Tavares, il brano è One Love qui al Soundcheck di Radio 24. Di Capo Verde, Sara Tavares con One Love qui al Soundcheck di Radio 24, appuntamento numero 110, quello di oggi ancora una volta dedicato al rapporto fra musica e benessere fisico, e oggi parliamo di musicoterapia. Soundcheck. Il suono della musica. Aventureiro, l'ultima fatica discografica del bassista polistrumentista nord-europeo Jürgen Attig, che dedica questo lavoro realizzato per Columbia Records al suo musicista di riferimento, ovvero il grande bassista Jacob Astorius, qui al Soundcheck di Radio 24, in questo appuntamento dedicato alla musica e al nostro benessere. Oggi stiamo parlando di musicoterapia e andiamo a vedere le origini, sì, perché l'uso della musica a scopi terapeutici è documentato in numerose civiltà dal mondo antico ad oggi, prevalentemente all'interno di un modello di pensiero magico, religioso o sciamanico. Infatti il concetto di musicoterapia come disciplina scientifica si sviluppa solo all'inizio del secolo XVIII. Il primo trattato di musicoterapia risale proprio alla prima metà del Settecento a cura di un medico musicista inglese, Richard Brockesby, ma anche in Italia i primi esperimenti di musicoterapia furono attuati nel morotrofio di Aversa a partire dal 1843 da parte di Biagio Gioacchino Miraglia. L'autore e docente argentino di musicoterapia Rolando Omar Benezon definisce la musicoterapia una disciplina paramedica che usa il suono, la musica e il movimento per produrre degli effetti regressivi e per aprire canali di comunicazione che ci mettano in grado di iniziare il processo di preparazione e di recupero del paziente per la società. La musicoterapia ha pertanto come finalità prioritaria quella di apportare un effetto benefico e positivo alle persone che hanno disabilità, patologie fisiche e o psichiche, e i mezzi utilizzati sono proprio l'ascolto della musica, l'esecuzione e l'invenzione di brani musicali. Le sedute possono essere individuali o di gruppo e la gamma dei soggetti a cui è rivolta è ampissima, va dai bambini agli anziani. Per quanto riguarda la terapia e la riabilitazione, gli ambiti di intervento riguardano preminentemente la neurologia e la psichiatria, ed è stata rilevata un'influenza positiva in pazienti affetti da patologie psichiatriche come la depressione, psicosi, autismo, e in pazienti con patologie neurologiche come l'Alzheimer, il morbo di Parkinson e gli stati di coma. Quindi chi è il musicoterapeuta? Il musicoterapeuta è quindi un mezzo attraverso il quale un paziente si apre e tira fuori le proprie emozioni. La musica dà alla persona malata la possibilità di esprimere e percepire le proprie emozioni, di mostrare o comunicare i propri sentimenti o stati d'animo attraverso il linguaggio non verbale, attraverso il linguaggio a volte ipnotico della musica, come quello che utilizza un maestro di elettronica chiamato Bono qui al Soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. Eh sì, lo abbiamo detto, le sedute di musicoterapia possono essere individuali o di gruppo e la gamma dei soggetti a cui è rivolta è ampissima, va dai bambini agli anziani, ma la musicoterapia è molto utilizzata anche con i bambini portatori di handicap di vario genere per favorirne lo sviluppo psicofisico, affettivo, emotivo e le capacità relazionali. La musica adatta può aiutare lo sviluppo mentale mentale, percettivo ed emotivo dei bambini minorati, indipendentemente dalla loro attitudine o abilità musicale. La musica può essere per questi bambini l'unico modo di autorealizzazione, può rappresentare per loro un mondo fidato con il quale comunicare, nel quale non conoscere insuccessi, integrarsi e identificarsi. Può essere l'unico campo in cui usare i pochi mezzi fisici o mentali che possiedono. L'ascolto di musica registrata viene impiegato in diverse specialità della medicina perché ha l'effetto di ridurre lo stato d'ansia e di migliorare il tono dell'umore. I reparti in cui viene maggiormente utilizzata sono i reparti di terapia intensiva, di oncologia, di medicina delle cure palliative, geriatria, odontostomatologia, ostetricia e ginecologia e nelle unità coronariche. La musica, grazie alla sua possibilità di favorire il rilassamento, viene spesso utilizzata con pazienti che devono subire un intervento chirurgico e quindi l'ascolto di musica sedativa avviene prima, durante e dopo l'intervento chirurgico. E quando deciderò finalmente di farmi ritoccare il menisco del mio ginocchio destro, forse chiederò al professore di suonare nella sala operatoria Green Garden di Laura Mvula, protagonista qui al Soundcheck di Radio 24. Chiudiamo questo appuntamento del nostro Soundcheck, anzi due puntate dedicate a musica e benessere, quella di oggi in particolare l'abbiamo dedicata alla musicoterapia, proprio riportando quello che ci viene detto da un rapporto sull'uso della musica nelle cliniche, in alcune cliniche tedesche, ci riferiscono che 15 minuti di musica rilassante cullano il paziente in uno stato di benessere tale che è possibile diminuire del 50% le dosi di farmaci sedativi e anestetici necessari per interventi che altrimenti risulterebbero molto dolorosi e addirittura alcune procedure lì in cliniche tedesche vengono svolte senza l'uso di anestetici ma ascoltando ottima musica, che è quella che noi cerchiamo di proporvi ormai da qualche mese tutti i giorni dalle 15:20 qui su Radio 24. E allora chiudiamo in bellezza con un grande musicista, un eccellente compositore ma anche bravo cantante, si chiama Avishai Cohen, una sua composizione evocativa e al tempo stesso ipnotica si intitola Winter Song e quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi. Noi ci risentiamo lunedì sempre qui su Radio 24 dalle 15:20. A tutti voi buona giornata, buon weekend e soprattutto buona musica da Gegé Telesforo. Check. Il suono della musica.